Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E siamo arrivati anche alla terza parte di Eclettica, una settimana che dal punto di vista letterario è letteralmente divisa in due. Appunto. La città, poco prima dell'autunno, immersa ancora nella calura dopo la fresca estate piovigginosa di quell'anno, respirava con più veemenza del solito. Il suo respiro si effondeva in fumo denso su da 100 ciminiere di fabbriche nel cielo terso, ma poi gli mancava la forza di proseguire. La gente, da tempo avvezza a quel cielo velato, lo trovava improvvisamente insolito e difficile da sopportare, sfogando la subitanea irrequietezza anche sulle cose più remote. L'aria lo opprimeva e l'acqua, quell'acqua maledetta che puzzava di residui chimici da tempo immemorabile, aveva un sapore amaro. Questo era l'incipit del Cielo diviso di Christa Wolfe. She was born in June. She danced with strangers and celebrities, empty stars in the full moon. I was singing about the universe for what it's worth. All the one about the phoenix bird, the tide and return. The angels of your on the radio Un'apertura tutta newyorkese di questa terza parte di Eclettica, fra l'altro tutta in forma di duetto, newyorkese o New Jersey, insomma, quelle parti lì. Abbiamo aperto con l'artista newyorkese Jesse Malin, che pensate aveva aperto la sua carriera come glam rocker con una band di nome D-Generation, ma poi arrivato alla carriera solista, il suo amore per artisti come Steve Earle, Tom Waits, Neil Young l'hanno portato su ben altri territori musicali e in occasione del suo ultimissimo disco dal titolo Glitter in the Gutter è riuscito anche nel duetto con Bruce Springsteen, è riuscito in qualche modo a convincerlo. Broken Radio è il brano che ha aperto Eclettica di quest'oggi, duetto sempre nella città di New York, quello che ci siamo invece appena ascoltati da un disco che in questo caso non è una novità, ma sapete, di tanto in tanto mi piace fare un salto qualche mese indietro nel tempo. Dal disco del 2006 di Joan as a Policewoman, il duetto assieme a Anthony, voce che direi non ha bisogno di presentazioni, per il brano intitolato I Defy. Cambiamo costa, andiamo a San Francisco, da cui proviene il trio dei Deerhoff, che sono arrivati, pensate un po', al nono disco, chi l'avrebbe mai detto, che soprattutto che ci arrivassero con questa freschezza. Friend Opportunity è il nome dell'album che esce per la tedesca Tom Lab, dal quale noi ci ascoltiamo la traccia numero 2 delle 10 in totale. Il titolo della traccia è Plus 81. Thank you. Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware, quelle cose. Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. Non so se mi spiego. Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta. Cioè, non è che il negozio di ferramenta è nostro, noi ci lavoriamo come commesse, come galoppini, come... Sì. We'll be right back. Dividing Opinions è il titolo del nuovo per la Home Sleep da parte dei Giardini di Miro, che ci stiamo ascoltando da un po' di tempo a questa parte con Broken By, ma sicuramente non sarà l'unico ascolto all'interno di Eclectic nel tempo. Vedrete che nel tempo ne compariranno anche degli altri. Ora ci trasferiamo a Athens, Georgia, città da cui provengono, hanno cercato di sviare, i Off Montreal. Non sono di quella città, come vi ho detto, sono del sud degli Stati Uniti, non del Canada. Un nuovo album, Hissing Fauna, Are You the Destroyer? Questo è il titolo dell'album che esce per la Polyvinyl Records, dal quale noi ci ascoltiamo il brano che è la penultima traccia. She's a Rejecter è il titolo. Some other girl to just walk up to her and hit her. But I can't, I can't, I can't, I can't, I can't. My, my, this demon heart of the master's hand crush me, why I don't understand. And I know you're not her, cause the girl of my dreams is probably God. Still I want you. Pronto? Pronto, sì, siamo, sì, no, lasciami, Maria, no, se fosse stato per me, sì, ma io sono il primo che non ho, allora, mi lasci parlare, no, hai capito, no, non posso ascoltarti, stai parlando solo tu, e mi hai proprio rotto i coglioni, hai capito, perché non sarà un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire, vaffanculo, vaffanculo, VFF, in culo, tu, il tuo negozio, la tua villa di merda, mi fai schifo, santo! Era occupato. Ma va a cagare, va. Oh,